Italia in controluce. È la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 quotidiano in due edizioni, 6.30, 13.30, che indaga sulla cronaca, sulla politica, sul costume italiano, in sostanza che racconta tutti i giorni la società italiana. Vi parla Daniele Biacchessi. Lo avete visto anche ieri sera alle 21 su Rai 3 con il programma di Riccardo Iacona, che esistono le mafie del nord, ma non dovevamo certamente saperlo da Iacona. Noi di Radio 24, che lavoriamo da moltissimi anni sulle mafie al nord e che continuiamo a mandare sia da Italia in controluce ma anche nei giornali radio trasmissioni, servizi, approfondimenti, interviste che vanno esattamente nella stessa direzione. Oggi vi parliamo di un caso, importante, cioè di un giornalista, di un giovane cronista che lavora e collabora alla Gazzetta di Modena. La Gazzetta di Modena, la provincia e la città, una delle zone più ricche del nostro paese, dove è concentrato il maggior numero di prodotto interno lordo. Ed è infatti in quei luoghi, nei luoghi più ricchi, nel ricco Veneto, nella ricca Lombardia, nel ricco Piemonte, nella ricca Emilia, dove le mafie si stabilizzano ormai da molti anni, sia per quanto riguarda le inchieste, ultime inchieste, ma anche le vecchie inchieste danno per certa una presenza importante, soprattutto dell'Andrangheta in Emilia. Questo giornalista si chiama Giovanni Tizian ed è attraverso i suoi occhi e il suo racconto che iniziamo questo lavoro, questo approfondimento, questo reportage di Maria Luisa Pezzali sulle mafie del nord. Giovanni Tizian ha 29 anni, è un giornalista precario, lavora per la Gazzetta di Modena e per altre testate, per cui scrive di mafia e delle sue infiltrazioni al nord. Dal 22 dicembre scorso è sotto scorta perché è minacciato dalla criminalità organizzata. Lo raggiungiamo telefonicamente mentre sta facendo la spesa, una delle piccole abitudini quotidiane che ora è cambiata, come tutta la sua vita. È cambiato nelle piccole cose. Anche per esempio appunto andare a fare la spesa, c'è un po' più di fretta, no? nel fare la spesa, perché comunque pensi anche di dare fastidio e quindi cerchi di fare presto tutto, anche il lavoro, sai, il giornalista comunque ha dei tempi che possono cambiare nella giornata, nel momento, e quindi ogni imprevisto diventa chiaramente una complicazione nella pianificazione di tutta la giornata, no? Con la scorta. È cambiata la quotidianità, assolutamente. In pochi giorni da quando la Gazzetta di Modena ha pubblicato in prima pagina la notizia della sua scorta, Tizian ha ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà. Davanti a tutto questo, ci dice, la paura passa. È umano provare la paura, ma insomma so di avere un muro che è la società civile, che le istituzioni, insomma è importante perché rispondiamo a chi vorrebbe farmi del male, questo è il nostro territorio e siete voi quelli che non ci dovete stare. Ecco. Sono moltissimi i messaggi di solidarietà che stai ricevendo, ti colpisce la cosa, te l'aspettavi? No, assolutamente, anche perché io insomma non pensavo neanche che venisse così fuori la cosa, e quindi insomma mi fa molto piacere, sono convinto che la cosa giusta insomma ecco, essere così protetto da tutti, dai colleghi, da voi, dagli amici, dalla società civile, ripeto, è un modo per ribadire che questa è l'Italia migliore. Ecco. Nel 1989 l'Andrangheta uccise suo padre, funzionario di banca, a Locri, mentre tornava a casa dal lavoro. L'anno prima le cosche avevano incendiato la fabbrica di suo nonno. Io avevo 7 anni, molto piccolo, ricordo solo che quella sera non tornò a casa, ricordo solo questo. Poi mia madre mi ha dovuto insomma, raccontare con tutte le cautele del caso cosa era successo. Dopo 3 anni da quella data siamo emigrati verso il nord a cercare un po' di normalità, cioè per farmi vivere comunque la vita di un ragazzo di 12 anni in Emilia, tranquillo, cercando di non dimenticare ma lasciandoci alle spalle il passato duro della Calabria, della Locride. Poi è diventato anche impegno più avanti, qualche anno dopo che ho iniziato a fare questo lavoro, ho sentito la necessità di recuperare quelle storie, di andare a recuperare le carte al tribunale di Lodi, di cercare di capire, di vedere, di studiare anche in quel caso, ma è stato forse proprio grazie al lavoro di giornalista che facevo che mi ha dato la forza di guardarmi indietro e di dire recuperiamo quella storia, perché in Calabria ce ne sono tante, cioè questo mio padre è uno dei tanti casi risolti in Calabria. I killer di tuo padre non hanno tuttora un nome? Non hanno nomi, non hanno avuto indagini approfondite, non si è mai più saputo nulla, ma ripeto, in Calabria come i casi di ripetizione ce ne sono a migliaia. Nel libro Gotica, 'Ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano la linea, Giovanni Tizian racconta le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico del nord, dalla Lombardia alla Liguria, dal Piemonte all'Emilia, la sua terra d'adozione. Un racconto fatto di un fiume di denaro enorme che passa per settori quali l'edilizia, l'autotrasporto, il gioco d'azzardo, il facchinaggio, attraverso la complicità di avvocati, commercialisti, notai, consulenti, i cosiddetti colletti bianchi, come decine di inchieste stanno dimostrando. Ho raccontato degli affari di tutti, quindi non c'è un'organizzazione di cui non ho raccontato degli affari al nord, ho parlato di Cosa Nostra, di 'Ndrangheta, di clan dei Casalesi, di intrecci allora addirittura fra di loro, no? Quindi ho parlato di questi territori del nord come dei feudi, diciamo, delle succursali delle organizzazioni criminali nel settentrione d'Italia. Come si muove la mafia, la 'Ndrangheta in Emilia, ad esempio? Si muove, ha cominciato a muoversi sotto traccia, creando prima le relazioni sociali, ricreando le relazioni sociali che le hanno permesso di diventare invisibili, attraverso le relazioni sociali con, diciamo, gli insospettabili locali, con i notabili, con la politica, con l'imprenditoria locale, i boss sono diventati invisibili, si sono mimetizzati e quindi sono riusciti a passare, diciamo, nei gangli della vita economica e politica delle regioni del nord. E questo è un dramma perché quando si chiede all'imprenditore locale, magari che ha dato da lavorare ad un'impresa mafiosa, si dice: ma quello sai che è mafioso? Vabbè, ma io come faccio a riconoscerlo? Non si chiede il perché, forse quel servizio che ha offerto alla sua impresa, quell'imprenditore mafioso, costa troppo poco rispetto alla concorrenza. Ecco. Quindi c'è una forte responsabilità anche del tessuto produttivo del nord, cioè questa voglia di abbassare i costi del lavoro al massimo e dei servizi alle imprese diventa poi un gioco a ribasso che permette alle mafie di affermarsi nel tessuto economico. Tizian lavora per 4 euro ad articolo, 20 se si tratta di un'inchiesta. I giovani cronisti che lavorano a questi temi, ci dice, vivono una doppia vulnerabilità, ma, aggiunge, io non mi fermo. Un'insicurezza contrattuale, economica, vado avanti con la passione di scoprire, di ricercare, di confermare attraverso le carte, diciamo, quello che possono essere delle intuizioni, però alla base c'è una doppia vulnerabilità, che in questo momento è doppia proprio perché si può girare con la scorta, e l'altra parte riguarda appunto la precarietà economica, quindi non si è mai tranquilli. E a maggior ragione con questo tipo di doppie vulnerabilità, non c'è proprio più dove guardarti, ecco, cioè è una sopravvivenza che diventa sempre più dura, però insomma non continuerò a fare questo in ogni condizione, è una passione, quando c'è di mezzo la passione è anche, voglio dire, ogni tanto un male, nel senso che riesci anche a sottostare appunto a sfruttamento, quindi però per me il giornalismo è essenzialmente passione civile, e soprattutto non penso, come diciamo, che il giornalismo possa cambiare il mondo, assolutamente sarei un ingenuo, ma ritengo che ogni tassello che possiamo dare noi giornalisti serve a cambiare o quantomeno a fornire una chiave di lettura della realtà ai cittadini, quindi spesso al cittadino, chiaramente alla politica. Notare il problema che il giornalista mette in risalto e fare qualcosa. Ecco, tu lo hai assicurato, vado avanti, non mollo nonostante quello che ti sta succedendo. Vado avanti nonostante i mafiosi, nonostante la precarietà, ecco, questo è certo. Era la seconda edizione di Italia in Controluce e questa è, come tutte le puntate di questo programma, lo trovate in podcast caricabile su radio24.it. Poi siamo su Facebook, la pagina e il gruppo, siamo su Twitter, il blog lo trovate sul nostro sito e la nostra mail è controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.